Che volete che sia a prendere che la RAI perdeva 200 milioni mentre ci dicevano che era inattivo? Lo facciamo spallucce, non ci meravigliamo neanche più. Sono solo 400 miliardi di lire, no? Di buco mentito e denegato in un anno. E che ci stupiamo più per cose che non siano di miliardi di euro? E beh, quando si perde la misura dello scandalo pubblico vuol dire che il pozzo pubblico del latrocinio è senza fine. E quando ci si abitua a questo, si è schiavi nell'anima. Questo è il problema, è esattamente la condizione nella quale i politici, purtroppo senza generalizzare, però mi dispiace, un po' è questo, perché la RAI è la RAI dei politici, con tanti signori professionisti e giornalisti che ci sguazzano per fare carriera, questo è, non è che i giornalisti sono immuni dalle critiche, ma quando si perde la misura dello scandalo e 200 milioni di menzogna nel conti RAI diventano poche righe in una pagina tecnica, questo dà l'idea di a che cosa ci siamo abituati nello Stato.